Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, stasera a San Siro c'è Milan-Novara di Coppa Italia, poi domenica a Novara ci sarà Novara-Milan, ma questi sono i capricci involontari dei calendari. Ci sono invece stranezze volontarie, e il termine stranezze è un po' un eufemismo, che hanno, secondo me, che hanno richiesto, che comportano comunque l'intervento al capezzale del nostro calcio, del dottor Piero Volpi. Ciao Piero. Ciao Gigi, buongiorno a tutti. Senti, io leggo brevemente, tu la conosci già perché l'hai letta stamane. La tabella curata e commentata sul Corriere della Sera, di stamattina per l'appunto, da Fabio Monti. Quindi oggi alle 21 a San Siro si gioca Milan-Novara, domani alla stessa ora si gioca Inter-Genoa, stiamo parlando di Coppa Italia, e poi se allarghiamo un pochino, ma non di tanto, il raggio d'azione alla, chiamiamola, Padania, arriviamo a sabato sera Atalanta-Juve, a seguire Inter-Lazio, e parliamo invece di campionato, domenica sera, poi martedì Juventus-Roma di Coppa Italia, eccetera eccetera. Morale, Fabio Monti ha fatto di conto, e il suo titolo, che ho trovato particolarmente brillante, è: la Lega di Serie A non sa che al nord gennaio fa freddo, 21 notturne in 19 giorni. Io lo so che sembra così di voler essere ripetitivi ad ogni costo, ma è possibile che ogni anno, a un certo punto, si debba arrivare ad affrontare di questi problemi? Purtroppo è possibile, perché questo è un argomento che personalmente ho sempre dibattuto e combattuto con l'Associazione Calciatori ormai da diversi anni, però è un argomento che o ci si ferma, cioè si fa una protesta drastica e ci si rifiuta di entrare in campo, o se no ogni anno si è qua a discuterne come una situazione tra virgolette a rischio, oppure si va avanti così e si accetta tutto. Cioè, purtroppo questo calcio, che segue le leggi più del business che di tutto il resto, ha queste esasperazioni. Io, limitandomi anche senza conoscere nel dettaglio tutte diciamo la parte organizzativa che è stata ben descritta oggi da Monti nel Corriere della Sera, cioè solo a Milano io ho notato che a San Siro si sono giocate 5 partite, o si giocheranno 5 partite dalla ripresa, cioè dal 7 di Inter Parma fino poi alla partita di domenica con la Lazio. E questo anche per gli spettatori, anche per, non solo per gli atleti, perché uno pensa al campo ghiacciato, agli attori, ma pensiamo anche a chi ci va a vedere. Certo, pensiamo anche al pubblico, si capisce. Pensiamo che tutto quel freddo fa male. No, ma assolutamente, ma poi se in previsione del fatto che stasera, quello che è più grave, cioè che mentre una partita come Inter Milan, magari una partita di cartello, ci può anche stare, può anche essere giustificato per l'appeal che possono avere il richiamo televisivo, ma una partita di Coppa Italia, oltretutto che potrebbe finire ai supplementari rigori, quindi esporre sia i giocatori e sia il pubblico a mezz'ora in più di calcio e ai rigori, quindi finire a mezzanotte avanzata. Cioè, anche queste cose, secondo me, il dirigente che organizza dovrebbe almeno avere in considerazione. Ecco, senti un po', Piero, tu sei stato calciatore professionista, no? di buon livello, facciamo buon alto livello. Buon livello. Sei stato medico sportivo, medico sociale, adesso non lo stai più facendo, ormai sei un chirurgo di vaglia, ma insomma, hai avuto questi due tipi di esperienza. Se tu avessi fatto anche il dirigente, cosa suggeriresti in alternativa? Guarda, io da tempo suggerisco, spingo con gli amici dell'Associazione dei Calciatori, che ripeto molto fanno, ma non, oggi ripeto, la legge che vale è la legge del business, quella di fare un tavolo. Qui bisogna fare anche per il contenimento degli infortuni, non è solo l'aspetto delle partite che si giocano in notturna al nord, ci sono tanti aspetti, l'aspetto delle preparazioni, il non andare a fare tournée immediatamente alla ripresa dei ritiri, e tutte queste cose che andrebbe fatto un tavolo tecnico per gestire i calendari. Questo diventa, secondo me, nella gestione dell'alto professionismo, una cosa così importante come, non so, le reti di protezione nella difesa libera. Non so se rendo l'idea. Sì, la rendo in pieno. È questo che va fatto, cioè se tu non investi in quello che è sicurezza, in quello che è, e quindi di qui, poi dicono, si parla del rapporto con l'Inghilterra, ma l'Inghilterra parte le squadre inglesi partono da un grande vantaggio, che hanno gli stadi di proprietà, sono stati riscaldati. Io sono stato a vedere la finale a Wembley di Coppa dei Campioni l'anno scorso, ma non ha nulla a che vedere uno stadio inglese oggi con uno stadio italiano. Cioè, quindi se non si investe in questo, è chiaro che diventa difficile, sì, voglio dire, proporre tutti questi sistemi. Del resto la prevenzione in tutti i sensi e la sicurezza di portare persone allo stadio significa poi dopo avere un ritorno pieno e un ritorno all'entusiasmo e la voglia di vedere questo sport che è meraviglioso. Mi viene in mente un'idea, ma che io ti butto, ne parlavo anche con Damiano Tommasi stamattina commentando queste cose, ma oggi Milano per esempio aveva una grande occasione oggi e domani, ma invitare le scuole elementari, le medie, facendo giocare le partite al pomeriggio alle 2:30, come quando io giocavo in De Martino, mi ricordo che un campionato De Martino bellissimo si giocava sempre il mercoledì pomeriggio alle 2:30. Certo. E tu dici, tanto Milano-Novara è difficile che si sia tutto esaurito, ma... Esattamente, si poteva invitare le scuole di Milano, le elementari e le medie, facevi promozione sui giovani, erano contenti anziché fare il doposcuola di passare un pomeriggio, figurati quanti ragazzi sarebbero contenti di venire gratuitamente allo stadio un pomeriggio anziché studiare un brano di latino e venire a vedere la partita del Milan e dell'Inter. Facevi promozione, e lo giocavi alle 2:30 del pomeriggio in un orario in cui il calcio secondo me è ancora... bello giocarlo nelle ore di solari e senza quel freddo di 4-5 gradi in più rispetto alla sera, insomma. Certo, adesso siamo vicinissimi alla pausa, io ti introduco la domanda e poi la risposta subito dopo l'intervallo. Anche perché non c'è soltanto un problema, non ci sono tanti questi problemi che abbiamo già accennato, ci sono dei dettagli che sono inquietanti. Uno riguarda il campo di San Siro, che conosciamo, no? Quanto sia annoso questo problema. L'altro, il fatto che i guasti del freddo, tu hai accennato anche a quelli che deve sopportare il pubblico, ma gli attori evidentemente ne hanno conseguenze più gravi. Il Milan ha appena perso nel derby di domenica per un infortunio muscolare un altro giocatore che ne avrà per più di un mese. Torniamo in collegamento col dottor Piero Volpi. Dunque, ultimo aggiornamento di campi e infortunio. Non so se il rapporto diretto c'è o meno, ma insomma il sospetto ci può anche stare. Boateng, derby di domenica, stiramento abbastanza profondo, a quanto pare, al flessore della coscia sinistra, minimo di prognosi un mese. Freddo o campo o tutte e due le cose, dottore? No, assolutamente tutte e due le cose. I rischi aumentano. Questo è ovvio che giocando su terreni ghiacciati, comunque più instabili, e il terreno di San Siro, anche se lo rizzollano continuativamente, lo risistemano, si vede che comunque non è un terreno del tutto normale, perché i giocatori scivolano e sono giocatori che conoscono bene il campo perché ci giocano praticamente tantissime partite, però si vede che sbagliano anche certe volte, in certe situazioni addirittura del campo si scivola, in altre meno, quindi si vede che c'è qualche cosa che comunque non è compatibile con una situazione di correttezza, di normalità intendo dire, e poi anche perché il freddo sicuramente aumenta il rischio soprattutto di lesioni muscolari. E io ricordo l'anno scorso, se non vado errato, in un Inter Sampdoria ci furono 5 lesioni muscolari, 3 della Sampdoria, 2 dell'Inter, giocata in notturna all'inizio del campionato, alla ripresa del campionato. Cioè è chiaro che i rischi aumentano. Poi qual è allora il rimedio? Quello di aumentare le rose. Oggi leggo che le squadre acquistano nuovi giocatori, sì. Però non è questo il rimedio, perché vai contro quello che è anche il contenimento delle spese, che di cui tanto si parla, eccetera eccetera, e questo non va bene. Cioè, ci vorrebbe una miglior ridistribuzione dei concetti e ovviamente anche delle intenzioni con questi tavoli tecnici. Secondo me bisognerebbe proprio che l'UEFA, in questo caso, non tanto solo l'organizzazione nazionale, chiamasse su un tavolo tecnico i vari esperti per poter pianificare bene i calendari e diciamo proibire queste forzature. Io la vedo in questo modo. Non c'è dubbio. Te ne dico ancora una prima di lasciarti al tuo lavoro. che è questa, che secondo me farà sobbalzare i milanisti, ma magari anche qualcuno al Milan, che può anche darsi che questo 2 più 2 non l'abbia fatto. L'ha fatto per noi Franco Piantanide. Dunque, Pato ha accusato 6 infortuni muscolari sino ad ora in carriera. Nel 2009-2010 con l'Atalanta e il Napoli, nel 2010-2011 con l'Oxera, il Palermo e la Sampdoria, nel 2011-2012 con l'Udinese, l'ultimo nello scorso settembre. Sapete dove? Tutti a San Siro. Secondo te può essere un caso? Questo devo dire che non mi sentirei di addossarlo al campo. Può darsi che il campo in una di queste evenienze abbia inciso, però voglio dire, in generale mi sembra più un discorso generale, tanto è vero che Pato fu poi inviato negli Stati Uniti studiare esattamente il suo modo, il suo assetto, la sua postura, più probabilmente la vera causa è un po' quello, cioè nel cercare di impostargli meglio quello che è il suo gesto atletico e quindi da lì correggere gli eventuali vizi. Però sai, dottore, te dico ancora un'altra. Questa è un'intervista ad Ambrosini della Gazzetta dello Sport dello scorso 6 maggio 2011. Lì il Milan stava più o meno festeggiando lo scudetto. Dice: prima di Ganso, allora si parlava di questo brasiliano, forse sarebbe meglio prendere un buon giardiniere o un botanico, perché il campo di San Siro è vergognoso. Fate giocare il Barça per un anno a San Siro e vediamo se segna i suoi 150 gol. Io per il prossimo anno non chiederei giocatori, ma un terreno migliore. È greve, come... No, ma è una cosa assolutamente... Ha ragione Ambrosini, che sicuramente siamo... Il fatto stesso, Gigi, che lo rizzollino o lo risistemino, come dire, quasi mensilmente, significa che comunque non è un terreno che ha tenuta e è un terreno che ha dei problemi, se no non andrebbero a toccarlo. Cioè, se fosse un manto perfetto che tiene la propria funzionalità, non sarebbe corretto. Da qui si apre tutto il discorso dei terreni artificiali, perché è chiaro che il passo successivo a questo è dire: ma come puoi risolvere questo problema? E quindi ecco che, per esempio, siamo molto attenti, io ti do anche questo spunto come discussioni anche future, cioè a quello che sta succedendo a Novara, per esempio, dove in Serie A o a Cesena per la prima volta da quest'anno si gioca su terreni artificiali. Quindi bisogna che si guardi con grande attenzione a questi campi, perché mi sembra che comunque siano campi che stiano dando delle risposte positive, cioè non in termini quindi di incremento di infortuni e nemmeno di deterioramento o di, diciamo, alterazione di quello che è il normale comportamento della gara, del gioco e dei rimbalzi della palla e di tutto quello che comporta il gioco del calcio. Hai già dato la scaletta per il prossimo appuntamento, eh? Quindi, va bene. Quindi il grazie è doppio, evidentemente. Benissimo. Grazie a dottor Piero Volpi. A voi, grazie, buon pomeriggio. Si diceva di queste rizzollature, no? Faceva accenno il dottor Volpi a questo. La più recente a San Siro è dello scorso 23 novembre, dovrebbe durare, pensate, almeno fino a fine febbraio, no? Sono 150.000 euro al colpo. Quest'ultimo manto arriva da un vivaio di Bordeaux ed è la stessa usata al... Questo è incredibile, è la stessa erba, sono le stesse strisce d'erba, rotoli d'erba, non so come li voglia chiamare, usata sia a Santiago Bernabéu che al Camp Nou, cioè gli stadi del Real e del Barcellona. Però chissà perché la resa è leggermente diversa. Quest'erba, secondo il responsabile dello stadio di Milano, Castelli, che è l'agronomo responsabile del terreno del Meazza, avrebbe dovuto ridurre al minimo il rischio di scivolate. A giudicare dalle ultime partite che si sono viste a Milano, davvero non si direbbe. Poi, per esempio, Luca scrive da Perugia: se Boateng avesse giocato con i vecchi tacchetti di alluminio, probabilmente non si sarebbe fatto male, ma chi lo può dire? Il nesso con una lesione muscolare profonda si può anche discutere, io credo. Stasera comunque si gioca, vi dicevo, si gioca per l'appunto a San Siro, e io sentirei l'allenatore del Novara, che attualmente insomma è un po' in difficoltà per risultati, come è inevitabile che sia, ma Tesser tiene a ricordare che insomma questa avventura del Novara in Serie A in realtà era cominciata con una sfida di Coppa Italia di 2 anni fa proprio a San Siro. Si va a fare una partita di Coppa Italia, 2 anni fa eravamo lì in questo periodo, 2 anni fa esatti, si è iniziato a parlare di Novara dopo quella partita lì, che segnava un punto molto importante, delineata un pochino, così diciamo, tutta l'atmosfera attorno a noi che si era creata in maniera positiva. È una partita di Coppa Italia, c'è domenica poi il campionato che sicuramente vale molto, molto di più. Ma un bel terreno sintetico, domanda Giorgio da Roma, sarebbe così scandaloso per San Siro? Ma no, scandaloso no, sarebbe però una sconfitta, perché insomma, comunque a calcio si gioca di preferenza sull'erba naturale, si gioca sull'erba naturale, ce l'ha raccontato Vincenzo Pincolini direi lo scorso anno, comunque qualche tempo fa, che si gioca in Siberia addirittura sull'erba naturale. È possibile che non si riesca a giocare su una buona erba naturale a San Siro? Bisogna buttare giù la copertura, certo, e questa, quella nefasta copertura del 90, e questo indubbiamente è un problema leggermente complicato. Sentiamo Valerio, chiamato da Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, avevo pochissimo tempo, io faccio l'operatore accademico in ambito dilettantistico, la mia osservazione è questa. Negli Stati Uniti il football americano raggiunge l'apice dei playoff e delle finali in gennaio, giocando in campi freddissimi e anche lì gelati, quando il campo è in erba. E quindi questo per dire che forse bisogna prepararsi tenendo conto di queste situazioni. Inoltre mi chiedo come mai staff di preparazione atletici di elevatissimo livello portano i propri giocatori in Dubai a prepararsi, quindi con percentuali di umidità e temperature completamente diverse da quelle che sono le nostre temperature e le nostre percentuali di umidità invernali. Questa è la mia domanda, la mia riflessione. Sì, la ringrazio. No, ma questa è una domanda che ci sta, che si può fare. È anche vero che, così come nessun allenatore fa un cambio o sceglie una formazione in maniera autolesionista, io credo che la stessa cosa valga per i preparatori atletici. Poi c'è chi la vede in un modo e c'è chi la vede in un altro. Si diceva nei giorni scorsi, l'Inter ha preferito restare dove era e fare vacanze più lunghe, no? Di stacco totale e poi allenarsi regolarmente da piano, e c'è invece chi ha scelto quell'altra formula. L'altra formula potrebbe dare forse risultati più brillanti a medio e lungo termine. Al momento direi che non li ha dati, perché la gamba dei milanisti, ma anche degli juventini domenica, non era la stessa. Erano meno brillanti. Poi nel Milan si è visto a maggior ragione, perché c'era il confronto diretto con chi invece aveva seguito un'altra metodologia di sosta invernale, però si è visto anche a Torino, che non era la solita Juventus dal punto di vista proprio della brillantezza fisica e forse anche psicofisica. Bisogna vedere se poi ci saranno dei vantaggi più avanti. Nel frattempo arrivano notizie di mercato, perché il Milan, proprio per via di questi infortuni, prima Aquilani, poi la ricaduta di Gattuso e adesso soprattutto il colpo di Boateng, è sguarnito notevolmente a centrocampo e quindi ha ripreso Merkel dal Genoa, e questo era già ufficiale ieri. Adesso è ufficiale che ha preso anche Mesba dal Lecce, che significa la partenza di Taiwo, che non mi pare abbia avuto grande successo nel suo arrivo dal Marsiglia a Milano. Ma di tutte le cose che ho sentito c'è la storia di Amauri, che mi sembra la più curiosa. Sentirei un ascoltatore e poi ve la racconto. Tommaso da Foggia, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Io, per quanto riguarda la Coppa Italia, dove viene un po', diciamo, trascurata dalle grandi squadre, perché non si prova a fare la formula che c'è in Inghilterra, magari concentrando un turno, più turni sul fine settimana, così danno visibilità anche alle piccole squadre di Serie C e gli operatori televisivi magari non risulterebbero danneggiati, solamente che si slitta un po' il campionato, ecco, questo potrebbe essere un'idea. Sì, però il campionato va ridotto allora a quel punto, no? E questa sarebbe intanto l'ideale sarebbe intanto ridurre le giornate di campionato e quindi non più giocare a 20 squadre ma a 18 e possibilmente anche a 16. Il campionato era molto più bello, più equilibrato, più combattuto, più breve e concentrato, e senza questi super turni, no, continuati e ininterrotti. Poi magari il resto si vede. Dunque la vicenda Fiorentina, perché ormai la trattativa Juventus-Fiorentina per Amauri è in retta d'arrivo, ci sono ancora un paio di problemi. Il primo è che Amauri vuole un contratto biennale a Firenze e la Fiorentina offre un contratto di 6 mesi, e già questo mi sembra una discreta distanza, no? tra le parti. L'altra, che ha rivelato ieri sera Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24, l'altra la trovo più carina, che è questa. Amauri, cioè la Fiorentina vorrebbe chiudere per Amauri il giorno 31, del mese. Perché? Ma per evitare il pagamento dello stipendio di gennaio. La Juventus vorrebbe cederlo immediatamente, in maniera che lo stipendio di gennaio di Amauri ricada già sulla Fiorentina. Sapete perché c'è questa distanza? Perché lo stipendio di Amauri è di 330.000 euro netti al mese. Qualcuno, evidentemente, un paio d'anni fa, alla Juventus ha firmato per Amauri un contratto di 330.000 euro netti al mese. Torniamo in onda con alcuni, beh, insomma, tra i messaggi certamente i 330.000 euro netti, ovviamente, se no non si comincia nemmeno. Al mese di Amauri mi pare che abbiano discretamente colpito quella parte di opinione pubblica che è in ascolto. Ma anche Marotta, scrive Luciano Nabiele, mi pare stia svuotando le casse juventine con operazioni assurde. Una su tutto aver lasciato andare via Immobile per ripiegare su Borriello. Si può discutere su questo, perché io credo che invece un anno di Zeman a Immobile stia facendo molto bene, no? Sta facendo molto bene al Pescara, a Zeman, ma credo anche ad Immobile, quindi in prospettiva alla Juventus. Ho letto però poi che in realtà Immobile il prossimo anno potrebbe passare ad un'altra società, e cioè non rientrare alla base, tipo il Genoa per esempio, e allora allora comincio a domandarmi. Molti juventini si domandano se il caso Giovinco, per esempio, o forse anche il caso Nocerino, non abbiano insegnato nulla, nel senso che prima di lasciarli andare giocatori di quel talento, il talento è innegabile, poi si può discutere sulla stazza, sulla taglia, su tanti altri parametri, ma il talento credo che a giocare a pallone dovrebbe essere sempre il primo dei parametri presi in esame. Immobile a Pescara sta indubbiamente facendo benissimo, Giovinco a Parma non si può dire che stia facendo male. Sono ruoli diversi, ma avere in giro talenti di quella età, oltretutto cresciuti in casa e quindi con uno spirito vero di bandiera, e avere a libro paga tre giocatori che giocherebbero nello stesso posto, che si chiamano Amauri, Toni e Iaquinta, con le cifre che ho detto prima di ingaggio che valgono per Amauri, ma non crediate che Toni guadagni di meno, e forse qualcosina meno Iaquinta, ma non troppo. Credo che qualche riflessione tutto ciò la possa autorizzare. Alessandro, provincia di Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Intanto un grosso saluto appunto a lei, signor Garanzini, e volevo appunto fare una domanda sulla Coppa Italia, cosa ne pensa di questa cosa? Nel senso che nel mese d'agosto le squadre fanno queste preparazioni, fanno amichevoli, triangolari, partite di 45 minuti, perché non giocarci la Coppa Italia in un mese dove le squadre più forti vanno sui campi delle più deboli, squadre di A, B e C, dove le ultime 8 partite farle giocare in un campo unico, dove appunto ci si gioca la Coppa Italia, e ad agosto la gente ha voglia di calcio, perciò per televisione ci sarebbero gli spettatori, in questi triangolari della birra, dei telefoni, vediamo gli stadi pieni, e questa cosa eviterebbe anche in inverno che questa scocciatura della Coppa Italia dove le squadre fanno giocare le seconde linee. Adesso io ho lanciato un po' un'idea e le volevo chiedere il suo punto di vista. Sì, no? Alessandro, non è nemmeno inedita, sarebbe anche logica, e quindi credo che non abbia grandi speranze di essere accolta, perché per l'appunto i trofei della birra o di altri settori merceologici richiamano di più, perché le squadre si scontrano tra di loro, cioè invece di giocarsi Foggia-Inter piuttosto che Juve-Stabia-Milan, no, si giocano Manchester United dica lei Napoli piuttosto che Juventus-Real Madrid o quello che vogliamo, si giocano in America, in Cina, e sono dei disastri autentici per la preparazione, per la qualità della preparazione, però richiamano perché appunto non essendoci ormai sempre meno cultura sportiva, ed essendoci sempre più richiamo di marketing, quelli richiamano, e invece la partita di Coppa Italia, che sarebbe assai più seria da un punto di vista tecnico e soprattutto che comporterebbe quello che ricordava ancora prima il dottor Volpi, cioè l'approccio graduale a una preparazione come si deve, che quindi poi con i riverberi positivi sulla salute, innanzitutto la salute psicofisica intendo, quella che tiene il più lontano possibile gli infortuni, Ma tutto questo non funziona con una cosa che è diventato un grande affare, che ormai di sportivo non è che non abbia più niente, perché poi se Dio vuole le partite si giocano lo stesso e molte sono ancora anche divertenti, molte, alcune, però tutto quello che c'è intorno è solo ed esclusivamente in funzione del quattrino. Renzo, Bologna, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. No, io volevo dire la mia e mi scuso già se sono un pochino polemico, ma cioè, i calciatori si devono mettere in testa una cosa: o guadagnare di meno per salvare di più la salute, o se no, cioè, io mi ricordo che quando ero ragazzino, io adesso ho quasi 60 anni, mi ricordo che iniziavano a giocare, facevano la preparazione in luglio, iniziavano a giocare la Coppa Italia dopo il 15 d'agosto con una squadra di Serie C. Adesso neanche in un mese di preparazione poi fanno i tornei a Tokyo, la Coppa Berlusconi, compagnia bella. Ma secondo lei la colpa, lei dice i giocatori devono guadagnare di meno, e fin lì siamo d'accordo tutti, ma la colpa è loro o di chi questi quattrini glieli dà? Diciamo che la colpa è un pochino di tutti, specialmente dei tifosi. Io fra l'altro non sono tifoso, io tengo un pochino per il Bologna. Un'altra cosa è che è uno scandalo, perché tanto mica solo in Italia, in tutta Europa, anche nel mondo forse, però basta, chi vince lo scudetto in Italia? Inter, Milan, Juve, forse poi Napoli, le altre sono considerate squadre materasso. Cioè, una volta era più bello perché lo scudetto l'ha vinto il Verona, l'ha vinta la Sampdoria. Sì, oddio, gli scudetti in Italia li ha sempre vinti a larga maggioranza quelle tre squadre lì. Poi c'è stato, è vero, un periodo che è cominciato nei primi anni 70 e che è durato per una quindicina d'anni, in cui c'era alternanza. E mi pare di ricordare a memoria 69 Fiorentina, 70 Cagliari, poi 74 Lazio, 76 Torino, 85 Verona, 87 e 90 Napoli e 91 Sampdoria, così a spanne. Da allora sì, Roma e Lazio nel 2000-2001, ma a prezzo di fallire, però, e di fallire tecnicamente, no? E quindi sì, effettivamente è questo, però insomma, ormai è un fenomeno che si è radicato anche in altre parti d'Europa, con l'eccezione direi della Germania e ogni tanto raramente della Francia. In Spagna il titolo della Liga è monopolio di due squadre senza più nemmeno le eccezioni rade che una volta c'erano, e in Inghilterra se lo giocano in 2-3, non di più. Luciano, Salerno, buongiorno. Buongiorno, salve a lei. Una proposta, ne avevo parlato anche qualche tempo fa alla Gazzetta. Le faccio una domanda: se io volessi un DVD, per esempio, sull'attività calcistica, sull'attività sportiva, per esempio, di Concetto Lobello o di Gianni Rivera o di un altro campione, di Pierino Prati, di Cordova, come si potrebbe fare? Non ne ho la più pallida idea, Luciano, ma non sono neanche particolarmente interessato alla materia. Cioè non è che trattiamo DVD, no? Al massimo possiamo trattare parole in radio. Per poter avere magari qualcosa del genere, si potrebbe lanciare un'idea ai vari giornali sportivi tipo Gazzetta o Corriere dello Sport, per avere, non so, qualcosa del genere, cioè, non per avere le cassette, per proporre da parte anche di noi lettori sportivi qualcosa del genere. Ma tutto si può fare, io vedo che vengono editate o rieditate un sacco di cose. Io sono un cultore di immagini storiche, anche perché secondo me servono a dei paralleli, servono a vedere quanto è mutato, per esempio, il calcio nella fattispecie, che cosa invece è rimasto di comune rispetto a un tempo, quali erano i talenti di una volta, ma in che contesto oggettivamente un po' più facile o comunque meno proibitivo di oggi si muovevano, e tanti altri parametri. Però da qui alle iniziative commerciali, sinceramente, mi coglie completamente spiazzato. Dunque, arrivano gli auguri di buon capodanno vietnamita da Claudio Dordi. Claudio Dordi vive e lavora ad Hanoi, è un italiano che vive e lavora laggiù, e che scrive stamane il seguente messaggio: dice il 23 sarà il capodanno vietnamita, che si chiama Tet, è anche cinese, e il prossimo sarà l'anno del dragone. A Milan e Inter il nuovo anno ha già portato un ottimo regalo, Tevez al Paris Saint Germain, scrive Claudio Dordi da Hanoi. Buon anno da Dragone. Sì, non si illuda poi troppo, perché mi pare di aver letto che qualche problemino c'è ancora tra tra i parigini e il City. Certo, solidarizzare con gli uni o con gli altri, visto che sono entrambe due società annesse, no? dai petrodollari di sceicchi, sinceramente credo, almeno io faccio un po' fatica a parteggiare per l'uno piuttosto che per l'altro, e nel dubbio non parteggio per nessuno delle due, ecco, sono semmai per le società che fanno di conto in maniera un po' più rigorosa e un po' più rispettosa, non certamente per questi ricastri che spendono, spandono e fanno la fortuna di chi riesce a concludere affari con loro, poi in realtà, perché le cifre di cui si parla, per esempio, per Tevez mi sembrano leggermente superiori al valore in assoluto di questo pur degnissimo giocatore. Ecco qua una proposta, la invia Max da Udine in maniera molto schematica e sintetica. Serie A, 18 squadre, dal 20 agosto al 20 maggio il campionato con 20 giorni di sosta centrali, invernali, rose ridotte a 22 giocatori più la primavera. Questa già mi sembra una buona ricetta, mi sembrerebbe una buona ricetta di partenza. Paolo, provincia di Torino, buongiorno. Pronto? Dica. Sì, ciao, grazie della telefonata. Niente, volevo solo accennarti un attimo quando parlavi appunto di Giovinco, questo che giustamente anche tu hai chiarito la perplessità di questi talenti che purtroppo tra virgolette, nel senso che vengono dati poi ad altre squadre a crescere, non crescere, che magari potevano stare anche la Juve, queste cose qua. Il problema penso che, come hai accennato, viene dal fondo, nel senso che io, ripeto, io sono osservatore di una squadra di Serie A, per cui tendenzialmente mi hanno dato questo compito da 2 anni a cercare di guardare una certa fascia di età, per cui di crescita. Il problema, come tu hai accennato, è il fatto che i talenti non vengono costruiti dai settori giovanili della nostra nazione, nel senso che poi alla fine sono più speculativi, c'è troppi soldi che vengono messi in mezzo, per cui ci sta anche che un Giovinco o altri possano essere visti come merce, talenti, proprio per questo motivo, per cui hanno un valore anche di mercato molto più elevato, per cui è normale che una società dove poi alla fine andrà su altri obiettivi possa essere visto una mercificazione su questi talenti che vengono dati via. E dispiacere per i tifosi che dicono vorrei averlo tenuto per questo, però poi alla fine il mercato da questa cosa. Il problema invece più grande è proprio quello sul settore giovanile, dove tendenzialmente non c'è un investimento paragonabile al Giovinco che è nato nella Juve o da altri, ma molti vengono persi proprio per questo motivo. E andiamo in Sud America o in altri posti del mondo dove hanno forse più facilità queste cose qua di far crescere con altre motivazioni dei talenti, ripeto, mi ricordo alcuni che mi hanno accennato, poi magari lei che ha più esperienza mi può aiutare, il fatto che c'era gente addirittura, come non dico a livello di Pato, ma molti in Sud America, dove aspettano che qualche società possa prenderli e avere lo sbocco per poter nascere, per cui possiamo capire quanto siamo distanti su un aspetto di crescita un po' più a 360 gradi anche. Non c'è nessun dubbio. Domani parleremo di tematiche legate al settore giovanile con il ritorno del professor Vittori, un luminare della scienza atletica, che poi per un breve periodo si è prestato al calcio nel corso della sua splendida carriera, e da quell'esperienza, insomma, molto ha ricavato e qualcosa, o parecchio, ha ancora da raccontare. E poi sentiremo anche un ex portiere azzurro che parlerà di giovani talenti portieri. Il suo discorso ci porta molto lontano. Io credo che ci porti anche a problemi, ad aspetti finanziari, ad aspetti di valuta, ad aspetti che chissà perché suggeriscono a molti presidenti, e non vi dico a quanti mediatori, di importare, no? Di importare dal Sud America piuttosto che dai nostri vivai. E anche questo credo che sia, questa sia una riflessione da fare, e come. Sentiamo che cosa ci ha trovato Nicola Filippone per il 18 gennaio. Sembra ieri. 18 gennaio 1976. Il Cesena di Marchioro coglie una vittoria prestigiosa ai danni del Milan di Trapattoni. Alla Fiorita i padroni di casa si impongono per 2-1 con gol di Danova e De Ponti, mentre il momentaneo pareggio milanista è di Calloni, che supera il portiere Boranga sul rigore. Prima del Milan, a Cesena era crollata la Roma e lo stesso capiterà alla Juventus. I romagnoli chiuderanno una stagione eccezionale con una storica qualificazione in Coppa UEFA. A proposito di vivaio e di rientri, il Milan sta facendo rientrare in massa i suoi talenti o comunque i giocatori cresciuti nel suo vivaio, perché vi ho detto prima dell'acquisto di Mesbah, vi ho detto del rientro di Strasser, adesso anche Strasser arriva, anche Strasser torna alla base, perché per questi infortuni, questa è una notizia proprio degli ultimi minuti. Tutti questi infortuni a centrocampo, qualcosa bisogna fare, devono correre ai ripari, e quindi si affidano a chi la società si è allevata in casa. Sentiamo Jorg da Riccione, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo intervenire per quanto riguarda gli stipendi dei calciatori. L'ho sentito fare un commento abbastanza forse sorpreso per quanto riguarda Mauri, no? Secondo me lui prende esattamente quello che merita. Io non sono mai stato tifoso in particolare delle squadre in cui ha giocato, ma quelle è stato preso da squadre, mi pare il Palermo, in cui aveva sempre fatto bene. Non ha mai avuto la possibilità di giocare con continuità. Quando questa gli è stata concessa anche l'anno scorso al Parma, ha dimostrato che assolutamente bastava concedergli fiducia perché dimostrasse tutto il suo valore. Tutto qui. Sì, certo, può essere. Addirittura Lippi, che non è l'ultimo arrivato, gli aveva dato le chiavi della nazionale, no? Se non ricordo male. Cioè, non era riuscito a dargli ancora le chiavi di casa perché mancava la cittadinanza, se parliamo di maglia azzurra. Però aveva impostato il futuro attacco dell'Italia in Sudafrica su Amauri, quindi evidentemente stiamo parlando di un giocatore che di qualità ne aveva, e secondo me ne ha ancora, era dimostrato a Parma. Io poi penso che una società che attualmente non riesce e sto parlando della Juventus, che non riesce ad avere le risorse necessarie a una vera forte opera di rafforzamento, che in questo momento le darebbe un'altra dimensione vera, perché ha le zavorre di tre giocatori che guadagnano quelle somme, tutti e tre, e che giocano tutti nello stesso ruolo e di cui nessuno ha fatto un minuto quest'anno in campionato, che sono Mauri, Tone e Aquinta. Io credo che qualche problemino residuo di gestione manageriale societaria ce l'abbia ancora, e tutto questo non appartenga soltanto al passato. Questa è una sensazione, direi anche una convinzione. Enzo da Bergamo risponde all'ascoltatore di prima che si chiedeva dove trovare tracce di immagini, filmati, storiche di campioni. Dice: su Rai Storia lei trova tutto. Alberto aggiunge che il sito www.storiedicalcio.it soddisfa la voglia di calcio da altri tempi. Alla fine si riesce a fare un po' di servizio pubblico anche in maniera involontaria. Merkel non Strasser, mi corregge un ascoltatore. Merkel non Strasser, no, tutti invece, sia Merkel che Strasser tornano al Milan tutti e due, e in più c'è questo Mesbah che arriva al Lecce. Cioè il Milan sta richiamando alla base i ragazzi che aveva dato in prestito, con proprietà, va a sapere, perché poi gli affari tra Milan e Preziosi credo che ci vorrebbe sempre la lente di ingrandimento, non solo questi, ma questi per esempio sì. E quindi la notizia era quella che oltre a Mesbah del Lecce anche Merkel e Strasser tornano alla base per via della moria di centrocampisti Boateng, Gattuso, Aquilani e finché ce n'è. A proposito di Milan, stasera c'è questo Milan Novara di Coppa Italia, abbiamo sentito prima Tessera, adesso sentiamo Allegri che si sofferma anche sul problema vero o presunto, ma presunto non tanto, di compatibilità tra Ibrahimovic e Pato. Ma non c'è nessun problema tra Pato e Ibrahimovic, tra gli attaccanti, c'è solo una questione di integrarsi al meglio, e credo che giocando insieme l'intesa crescerà, perché il primo tempo hanno fatto un buon primo tempo ed erano molto contenti. Il secondo tempo purtroppo abbiamo commesso l'errore di voler, soprattutto dopo il gol dell'Inter, voler risolvere la partita un po' troppo a livello personale, e ha fatto sì che loro hanno trovato agevolazioni nel difendersi. Siamo in chiusura, mancano non molti secondi. Roberto Mancini ha qualche problema di compatibilità con i suoi colleghi inglesi. L'allenatore del Wolverhampton, McCarthy, lo accusa di cercare di influenzare l'arbitro con la richiesta di ammonizioni. È una storia curiosa su cui magari ci diffonderemo un po' di più un'altra volta, che ci sia un pochino di tempo in più. Per il momento grazie a Pietro Lacorte in regia, Franco Piattanida in redazione, a tutti voi che ci avete seguito, e buon pomeriggio. A tempo di sport.